ci ha fatto le barre di croce, non scendi. Scusa, ti vuoi buttare a Cagliari in trattore? passo questo microfono a Dagua. Ti devo fare più quella chiamiamo la LCA, quella da mettere la radio, perché se la rimetto come la più, non spinge, al massimo, ho capito. Ciao, ciao, ci ascoltiamo le prossime, ciao. Ciao, ciao. minuti mi assento. Quale? Quando è capo quale? Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Beh, sono in Parigi. Ciao, ciao, ciao. È arrivato dopo Adamo, già mi sente. Ciao Domenico.